Olivi Vassi, che ti arrivo! Palmas arriva in che non pari! Palmas arriva in che non pari! Vamo DJ! DJs Unidos Solios.